Parliamo ora di uno spettacolo che sarà in scena qui a San Lorenzo al Nuovo Cinema Palazzo venerdì 10 febbraio del 2017, cioè tra qualche giorno. Margine operativo con Partizan Let's Go. Alessandra, eccoci qui. Ciao, buongiorno. Allora, un lavoro che io personalmente già conosco, come lo racconteresti? Ma lo racconterei raccontando un po' il percorso di questo spettacolo, che è uno spettacolo che nasce nel 2014 e la cosa interessante è che continua il suo percorso, perché in realtà si arricchisce, un po' un work in progress. Ogni volta che lo ripresentiamo c'è qualche cosa di nuovo all'interno. Uno spettacolo a cui noi teniamo molto, che parla di, diciamo, del fascismo, dei fascismi e degli antifascisti soprattutto, e quindi un po' cerca di ricollegare quelle che sono state delle lotte, diciamo, passate con la contemporaneità, con quello che succede nel nostro mondo oggi. Ed è per questo che è uno spettacolo a cui, diciamo, vogliamo molto bene, che continuiamo a portare in giro, a presentare anche dopo, appunto, quasi questo è il terzo anno che continua, diciamo, a fare delle tappe, e non solo a Roma. Secondo me è uno spettacolo chiaramente anche un po', tra virgolette, necessario, perché comunque porta una tematica che è quella dell'antifascismo, che è una tematica sempre attuale, mai chiusa, e che forse è anche un lavoro sulla memoria, un lavoro per riattualizzare una memoria. Tra l'altro, in scena vecchi amici del radioteatro. Assolutamente sì, in scena con noi in questo spettacolo, che è uno spettacolo di margine operativo, ci sono Andrea Cota e Michele Baronio, con cui collaboriamo da anni, quindi chiaramente anche, diciamo, è una bella squadra da questo punto di vista, sono delle collaborazioni su vari livelli, e in questo spettacolo siamo proprio insieme. Quindi, come dicevi tu, è venerdì 10 alle 9 al Nuovo Cinema Palazzo. E poi chi è un po' interessato a vedere materiali video, foto, ad approfondire un po', sul nostro sito, che è margineoperativo.net, chiaramente trova tutta la scheda dello spettacolo, le note di regia e quant'altro. Benissimo, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, e ci sentiamo per le prossime novità. Sì, assolutamente sì, qua c'è sempre qualcosa, quindi va benissimo. Avrete presto nostre notizie. Tra l'altro, grazie. C'è uno spettacolo che vogliamo portare qui in radio, che ho avuto modo di vedere in autunno al Centrale Preneste. E questo tempo fa l'hai visto, l'autunno ne hai visto un altro, ma ti stai... No, è un altro, non questo. Il pallo della morte. Pensavo Partizan. Partizan, il pallo della morte, che speriamo di ospitare presto. Sì, al pallo della morte, che tra l'altro riproponiamo al Teatro del Lido sempre a febbraio, il 24 febbraio, al Teatro del Lido a Ostia, e fa parte un po' di questa serie di spettacoli, per adesso una trilogia, che Partizan Let's Go, Presunta Morte Naturale e Al Pallo della Morte, che sono tre spettacoli anche differenti tra di loro, però in realtà che sempre con una tematica che ha una forte aderenza sul nostro tempo, su quelle che sono le problematiche che attraversiamo tutti, per sì. Cui appunto Partizan, fascismo, antifascismo, Presunta Morte Naturale racconta tutta la storia di Stefano Cucchi, e Al Pallo della Morte, che, diciamo, liberamente ispirato al libro di Giuliano Santoro, racconta del fatto drammatico del si sofferma, cioè, partendo da quel punto, l'uccisione di un ragazzo bengalese a Torpignattara sì. L'altro anno, però fa un po' un orientamento sulle migrazioni, sui nuovi cittadini italiani, sì, e quant'altro. Sì, quindi, tra l'altro, sono diversi, però sì. Fanno parte un po' di una. Sì. Un percorso. Sì, tra l'altro, se è in scena venerdì 24, si potrebbe programmare il 21, ci si può pensare. Ci si può pensare assolutamente. Va bene. Sì, tra l'altro siamo molto contenti di andare al Teatro del Lido, che in questo momento vive un momento difficile perché vogliamo metterlo a bando, dopo che invece è un'esperienza molto bella, sì, di teatro partecipato per chi l'ha conosciuta, quindi ci fa piacere attraversare quello spazio in questo momento e portare, diciamo, un lavoro ma anche un modo di, insomma, stare vicino a uno spazio importante, in questo momento è un momento di grossa difficoltà. Bene, allora ricordiamo Partizan Let's Go, venerdì 10 febbraio alle ore 21, Nuovo Cinema Palazzo, margine operativo. Un abbraccio. Perfetto. E a presto. Grazie a te Federico, ciao. Ciao.